Una vecchia donna seduta alla mia scrivania. Seduta che si sostiene il capo. Io, che cosa fai qui? Lei, cerco. Io, che cosa cerchi? Lei, la mia promessa. Per l'arte piacere ho aperto la mia scrivania. In un momento tirò fuori tutto insieme. Essa fissava con occhi di fuoco le cose. Non ho mai visto cercare in quella maniera. Anche le sue lettere sono lettere scritte alla principessa dal parroco Weiser, le teneva in mano. Finalmente sospirò, perduto. Ed era sparita. Non ho una idea di chi possa essere stata. Dal suo modo di vestire era una persona del nostro tempo. 8 novembre. Giovanni fu qui quasi tutta la notte. Io, mi sembri contento. Lui, sono avanzato. Io, dove? Lui, nella conoscenza. Io, allora nel pentimento. Lui, no, quello è passato. La conoscenza della luce. Io, parlami di più di questa luce. È il buon Dio? Lui, lo capiscono soltanto quelli che non hanno corpo. 11 novembre. La donna che cerca venne di nuovo in carnera mia durante il giorno. Le chiesi, posso aiutarti a cercare? Allora mi guardò e pianse. Un altro giorno stava davanti alla mia scrivania ed ecco l'inspiegabile, i tiretti chiusi erano aperti. Allora provai davvero un brivido. Escluso qualsiasi inganno. Lei stava lì vicino sorridente, mi si avvicinò e posò la sua testa sulla mia spalla. Poi disparve. Nei cassetti era tutto in ordine come prima. È un qualche cosa di nuovo, che mi sveglio con un certo presentimento ed ecco che vedo tutta la parete piena di teste. È una cosa davvero molto brutta. Esse mi fissano con varie espressioni dolorose del volto. 27 novembre. È come Giovanni H. più luminoso e contento, ho pregato con lui. Chiesi, che cosa posso fare ancora per te? Lui, offri la tua volontà. Io vorrei ma è sempre tanto difficile. Lui, ti sarà data la forza. Io, perché non vai da tua moglie? Lui, la strada mi è indicata. Io, dimmi qualche cosa di più dell'eternità. Lui, credi ed abbi fiducia. E disparve. 4 dicembre. Non l'ho più visto e neanche la donna, soltanto un gran frastuono e tante figure anche di giorno.